figli di un Dio minore. Cronache e storie di impegno sociale. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto. Siamo medici, non spie. Ve lo ricordate? Con questo slogan alcuni operatori sanitari hanno manifestato qualche mese fa il loro dissenso a una campagna scatenata dalla Lega Nord che voleva cancellare il divieto per medici e infermieri di denunciare uno straniero senza permesso di soggiorno. Se ne è discusso molto durante l'approvazione del pacchetto sicurezza. Alla fine non se n'è fatto nulla. Il divieto resta per medici e operatori sanitari. La campagna però ha avuto come effetto perverso quello di confondere le idee e alimentare i dubbi. Alcune associazioni allora hanno sollecitato il governo a fare chiarezza e il 1 dicembre il Ministero dell'Interno ha diramato una circolare che chiarisce e ribadisce il divieto per medici e operatori sanitari di segnalare la presenza in ospedale di immigrati irregolari. Qualche effetto tutto questo terrorismo mediatico però l'ha già avuto. Dal rapporto Censis 2009 appena diffuso si scopre, ad esempio, che solo 6 cittadini stranieri residenti irregolarmente in Italia su 10 sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Non ci sono dati certi sui cittadini stranieri senza permesso di soggiorno, ma stando a chi opera sul territorio, un effetto c'è stato. Noi abbiamo parlato con gli operatori del centro Opera Malati Poveri San Fedele, un ambulatorio che cura persone povere ma anche molti immigrati, gratuito, che assiste circa 20.000 persone l'anno a Milano. Da poco tempo c'è anche un ambulatorio pediatrico seguito da 2 medici pediatri. Una di queste è Loredana. Io faccio la pediatra di persone senza permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno in scadenza. Ne vedevo un certo numero. Dopo che è cominciato questa voce per cui è partito il reato di clandestinità e quindi non ne ho più visti, cioè non vengono più, nonostante qualcuno le abbia anche contattato dicendo guardi non succede niente, venga, può andare nel pronto soccorso eccetera, in realtà la gente ha paura e quindi non viene. Quindi abbiamo pensato che un ambulatorio pediatrico aperto in una struttura che faceva accoglienza potesse essere un punto di aiuto, di incontro di queste famiglie. Questi bambini potrebbero andare tranquillamente a pronto soccorso, potrebbero essere visti anche se non seguiti. È vero che il pediatra di base non li può seguire, cioè non può fare loro prescrizioni con il famoso ricettario rosso, cioè quindi non può dare farmaci tra virgolette gratuiti, ma non vengono. Il centro ospita anche una farmacia che assiste oltre 100 persone al giorno, fra loro molti immigrati ma anche italiani. I farmaci sono gratuiti, vengono donati oppure vengono anche acquistati dal centro, come ci spiega il farmacista. Molti farmaci si comprano, cioè noi li compriamo perché ci sono alcuni farmaci che vanno dati. Più delle volte dobbiamo anche cambiare, cioè a parità, anche perché sapete che in Italia farmaci ce n'è uno ma con 7 nomi, quindi io sono anche costretto a volte a cambiare e loro si fidano, c'è gente che è abbastanza e poi ti ringraziano, mentre c'è anche qualche cattivo, qualche pretenzioso, qualcuno che quasi sbraita, batte i pugni, però gente che a me quando li posso accontentare mi fa piacere, cioè mi sento gratificato. Lei lavora anche come farmacista al di fuori di questa sua opera di volontariato? No, l'ho fatto per poco perché non era un lavoro che mi piacesse molto. Poi sono andato nell'industria. Sì, no, qui mi piace di più. Mi piace di più anche perché qui è anche più professionale, se vogliamo. Cioè, qui devi. No, perché ma qui non fa il farmacista. Uno. No, ma a parte qui poi parli con questi, cioè ti dicono quello che hanno, allora gli cambi o gli dai qualcosa. Ma c'è stata gente che è venuta a ringraziarmi e dice oh, grazie, sa che sono stato bene. E allora poi se ha un altro problema ti rivuole, perché dice questo qui me li risolve fin dove posso, perché poi li mando dal medico. Mi diverto, mi rendo utile, cosa che invece avrà a che fare con la signora che ti sbatte lì le ricette e pretende. Qui c'è un colloquio. Venerdì prossimo, 18 dicembre, è la 4ª giornata internazionale del migrante. Anche Radio 24 partecipa all'iniziativa di Radio 1812, Centro di Documentazione e Promozione Internazionale per i Diritti Umani dei Lavoratori Migranti. Hai lasciato il tuo paese per lavorare all'estero? Stai pensando di emigrare? O forse conosci qualcuno che l'ha fatto? Il 18 dicembre si celebra la Giornata Internazionale dei Migranti. Oltre 150 emittenti radiofoniche di ogni parte del mondo hanno partecipato lo scorso anno a Radio 1812 per raccontare le storie e le esperienze dei migranti. Celebra questa giornata insieme a noi. Sintonizzati su www.radio1812.net. Avez-vous quitté votre pays pour travailler à l'étranger? Avez-vous l'intention de le faire? Ou peut-être connaissez-vous quelqu'un dans ce cas? Le 18 décembre, nous célébrons la Journée internationale des migrants. Célébrez cette journée avec nous et branchez-vous sur www.radio1812.net. Did you leave home to work abroad? Are you thinking of doing so? Or maybe you know someone who does? On the 18th of December, we celebrate International Migrants Day. ¿Has dejado tu casa para trabajar en el extranjero? ¿Estás pensando en hacerlo? Tal vez conozcas a alguien en esta situación. El 18 de diciembre celebramos el Día Internacional del Migrante. هاجرتم بلادكم للعمل في بلاد أخرى؟ هل فكرتم في 18 من ديسمبر؟ اليوم العالمي للمهاجرين الذي أعلنته الأمم المتحدة. العام الماضي إذاعات العالم بأسره التحقوا براديو 1812 للاحتفال بهذا الحدث الإعلامي. radio1812.be Per chiudere parliamo invece di tutt'altro, ossia di musica e graffiti. In particolare vi proponiamo due interviste realizzate dal nostro Enrico Pagliarini presso la comunità di San Patrignano. Le note che sentiamo in sottofondo sono quelle dei Mozartini, un'associazione che nasce attorno alla musica. Siamo con Antonio Coscia, che è vicepresidente di questa associazione. Chi sono i Mozartini? I Mozartini è un gruppo di ragazzi, giovani musicisti, che vengono avviati così alla musica, all'incontro con la musica, soprattutto musica classica, attraverso un discorso che va dall'avvicinamento all'educazione, anche oltre che all'apprendimento dello strumento vero e proprio, ma anche all'educazione, all'ascolto della musica, perché oggi sappiamo che la musica classica è un poco non è molto seguita, soprattutto dei giovani, e in questo abbiamo avuto anche un conforto della presenza del maestro Udo Ughi, che è stato il nostro ospite qualche anno fa, e con lui in effetti ha valorizzato questa nostra iniziativa, appunto per poter soprattutto avviare i ragazzi allo strumento, all'educazione musicale, all'educazione all'ascolto. E in questo poi viene associato anche un discorso di prevenzione verso quella che è, diciamo, può essere il disagio oppure l'incontro con situazioni un poco tipo tossicodipendenza. È un lavoro anche di prevenzione che poi è stato anche valorizzato dall'incontro con Queen, con i responsabili della guida di San Patrignano, perché la nostra edizione dell'incontro internazionale di musica che facciamo ogni anno a Monte Corvino, dove si incontrano diversi ragazzi da ogni parte d'Europa, gruppi di orchestre con scuole importanti russe, polacche eccetera, abbiamo anche aperto questa finestra anche sul sociale, e quindi è nata la prima nostra iniziativa di collaborazione con San Patrignano, con uno spettacolo Fughe da Fermi, in cui i nostri ragazzi hanno interagito con i ragazzi di San Patrignano proponendo questa nuova forma di spettacolo. Ricordiamo che Monte Corvino è in provincia di Salerno. Quanti sono questi ragazzi? Sono circa 50 che sono qui presenti oggi, In totale? E poi abbiamo un vivaio di una ventina di ragazzi piccoli, dai 7-8 anni, perché poi noi facciamo anche un discorso di educazione al canto, al solfeggio, e quindi praticamente già vengono avviati alla musica, con l'educazione musicale, e per poi entrare a far parte man mano degli anni dell'orchestra di Mozartini. Bene, allora grazie ad Antonio. Noi rientriamo nella sala, come sentite. Queste sono le ultime note di prova dei Mozartini, che tra poco inizieranno il loro concerto. Siamo con il gatto nero, Alessandro Gatti è detto il gatto nero, tu sei un graffitaro, dico bene? Sono un writer, un artista italiano che fa i graffiti vecchia scuola. Ma uno di quelli che va in giro a fare i disegni sui treni? Che andava a migliorare negli anni 80 la città di Milano. Cioè non sono uno di quelli che fa i graffiti sui treni, sono uno di quelli che c'è la piazzetta che è brutta perché almeno negli anni 80 c'erano le fabbriche che smontavano e la città era diventata una vera schifezza. C'erano dei posti che erano agghiaccianti e noi andavamo a migliorarla, ma è stato un moto spontaneo proprio, un moto quasi popolare. Senti, tu sei a San Patrignano per presentare anche un'iniziativa, l'Amico Charlie, che è un modo per recuperare alcuni ragazzi anche attraverso i graffiti. Soprattutto attraverso i graffiti, perché io mi rendo conto che io sono stato salvato dalla mia passione per l'arte, dal fatto che qualcuno mi ha dato una matita in mano. Molto semplice, perché capito, i giri non erano bellissimi, io stavo alle case della Gesca, quella zona lì, Baggio, eccetera, eccetera. Per cui non è che avevo proprio l'ambiente. Perché non è di Milano, diciamo che non era una bella zona. Adesso è diventata una bellissima zona, ma all'epoca era parecchio ghetto. Per cui noi adesso siamo spostati in Bovisa con l'amico Charlie, che fa proprio questa iniziativa per cercare di intervenire, per dare una passione prima per i ragazzi giovani, in modo che prima che comincino ad avere la passione della droga abbiano la passione, un'altra passione. C'è il disegno, c'è il corso di DJ, abbiamo tutti i corsi di danza, glielo facciamo fare, ovviamente tutto gratuito, è privato tendenzialmente, gratuito per tutti, chi vuole venire venga. E io faccio il professore di graffiti, perlomeno sono andato lì siccome conoscevo un organizzatore, mi fa: guarda, tu fai graffiti. Ho detto: cazzo, bellissimo, facciamo questa iniziativa. E per me ha funzionato, molti ragazzini, soprattutto di immigrati, cioè perché Bovisa è proprio dove c'è la moschea, no? E allora questi ragazzini vorrebbero integrarsi, però il genitore ha una cultura troppo distante, allora magari il genitore non si integra, ma lui vorrebbe, però non sa come. Poi gira la droga perché gira, allora io gli dico: ragazzi, dipingete. Adesso sto cercando di convincere un ragazzo marocchino a fare le scritte in marocchino, cioè sai che noi lavoriamo sull'elaborazione della lettera, eccetera. Parte insegnargli a disegnare, ho detto: scusa, ma la calligrafia marocchina è fantastica, ha dei giri delle lettere che sono meravigliose. E lui mi fa: cazzo, non ci avevo mai pensato. Gli ho detto: guarda che tu, portando qua, ok, ti devi adeguare alla cultura italiana, ma devi anche portare un po' del tuo. Senti, raccontiamo anche qualcosa della tua esperienza. Tu oggi insegni come volontario all'amico Charlie, ma tu di fatto sei un artista e ti guadagni da vivere facendo l'artista. Sì, io di fatto sto nelle gallerie, vabbè, le cose grosse che ho fatto è la famosa mostra al PAC di graffiti street art, quella con Sgarbi e tutto il resto. Però già da prima io facevo esposizioni in piccole gallerie, sempre un po' marginali, poi finché adesso è esploso il sistema dei graffiti e siamo i più richiesti nel mondo artistico, per cui sto cominciando a fare qualcosa con gallerie un attimino più importanti, tipo vedi la Cocchi Gallery, che ha dentro due quadri, mi ha fatto fare, sono andato lì, era un mio ex professore di Brera. Oltretutto, apro parentesi, i miei amici del ghetto, diciamo, sono quelli che mi hanno iscritto in accademia, mi hanno detto: vieni. Tu dicevi sei stato uno di quelli salvati. Sì, io sono stato salvato un po' dagli amici, un po' dalla mia passione, perché loro, gli amici, sapevano che io sapevo disegnare, che mi piaceva, stavo lì a un blocco, giravo sempre con sto blocco. Allora hanno detto: come regalo, io compio gli anni a giugno, ti iscriviamo per settembre, c'hai il test ingresso, preparati. Ovviamente il test ingresso è andato benissimo, perché io disegno fin da bambino proprio. Per cui loro l'hanno visto, io ero molto allo sbando, non c'era una direzione, non c'era una roba come l'amico Charlie, che bene o male noi cerchiamo ai ragazzi di dargli una direzione, di vedere cosa piace a loro e farglielo fare, gli dai una spintina. A me è andata di culo proprio, diciamo, è sdoganato, sì, si può dire, è andata di culo che ho avuto questi amici meravigliosi, molto acculturati, che mi hanno detto: fai, e poi il viaggio è stato molto complesso, perché ho fatto di tutto. Adesso, oltre a questo, io applico il disegno, nel senso che faccio scenografie per il teatro, anche lì partendo dai teatrini piccoli. Anzi, il primo lavoro che ho fatto è smontaggio a San Siro al concerto di Vasco Rossi, nel senso 4 di notte scaricare il camion, poi pian pianino progetti, disegni. Adesso ho le mie opere liriche che vanno in giro. Adesso ci ho Traviata, a Gallarate e già qualcosa, cioè, dal nulla. È tutto per oggi, vi rinnovo l'appuntamento per domenica prossima alle 14:05. Buona giornata, ciao!